Salva Danaio di Deborah Rosciani. Benvenuti a Salva Danaio da Deborah Rosciani, a tutti buona giornata. Siamo nel pieno della svolta digitale del mondo scolastico, perché quella che sta per chiudersi è stata la prima settimana in cui è stato possibile per le famiglie italiane iscrivere i propri figli al primo anno delle scuole di ogni ordine e grado. Una settimana che però, lo sapete perché lo abbiamo raccontato, è iniziata con il tilt del sito del Ministero dell'Istruzione per via delle troppe richieste che i genitori stavano inoltrando. Da quest'anno, infatti, allora, per essere precisi, l'iscrizione avviene solo online. Dal Ministero continuano ad arrivare gli appelli ad evitare inutili intasamenti della piattaforma. La data in cui viene effettuata l'iscrizione non viene infatti presa in considerazione come criterio per l'accoglimento della richiesta. Non è un click day come quello che così viene generalmente organizzato, per esempio, per fare la regolarizzazione dei lavoratori immigrati e altre questioni appunto del genere. Non vince chi arriva primo. Si può scegliere con calma, valutando tutte le proposte e le possibilità. C'è tempo fino al 28 febbraio. Allora noi oggi facciamo il punto sulle modalità di iscrizione dal punto di vista chiaramente soprattutto delle famiglie, e così ci focalizziamo sugli accorgimenti di cui bisogna tenere conto e soprattutto raccoglieremo le vostre domande e testimonianze. Problemi con l'iscrizione online, oppure non avete internet, non sapete come fare, come vi siete organizzati? Vi anticipo già che esattamente come è successo settimana, come è successo lunedì scorso, anche lunedì prossimo alle 13.30, la nostra rubrica Scuola in Controluce si dedicherà naturalmente a questo argomento per fare un punto della situazione. Cercheremo un po' di seguire questo tema progressivamente fino ad arrivare alla scadenza naturale di tutta l'operazione, che è il 28 febbraio. Un'operazione che, appunto, tanto per dare anche qualche cifra, riguarda 1.700.000 famiglie. Con noi questa mattina per parlare diffusamente di tutto questo, Daniele Grassucci, responsabile delle relazioni esterne di scuola.net, lo ricordo sempre per chi vuole andare a curiosare su questo sito, scuola scritto con la K. Daniele, buongiorno e bentornato a Salva Danaio. Buongiorno a te Deborah, buongiorno a tutti gli ascoltatori. E buongiorno e ben ritrovato anche non solo ad un bravo papà, perché di figli ne ha un po', ma è anche presidente dell'AGE, presidente nazionale dell'Associazione Italiana Genitori Onlus, Davide Guarneri, bentornato anche a lei, buongiorno. Grazie, buona giornata a tutti. Allora, poi sentiremo alcune colleghe del Sole 24 Ore che si sono cimentate in questa operazione, sentiremo anche una scuola per capire con che tipo di problemi invece la scuola si è dovuta cimentare, perché naturalmente dobbiamo anche considerare questo punto di vista. Non tutte le scuole sono totalmente attrezzate per ricevere la marea magari di iscrizioni che possono arrivare in un determinato picco orario, per cui sentiremo anche dal punto di vista scolastico quali sono un po' le perplessità su tutta questa operazione, che però è molto importante. La questione, tra l'altro, digitalizzazione del mondo scolastico sta andando avanti da un po' di anni, un altro step molto importante, poi avremo modo di parlarne nel corso della trasmissione, sarà per esempio quello che si concretizzerà a giugno 2013, quando le scuole dovranno redigere le pagelle online. Il documento avrà lo stesso valore legale della pagella in formato cartaceo, e poi insomma ormai quasi tutta la comunicazione scuola-famiglia viaggia con questa metodologia. E sentiremo allora cosa ne pensano i genitori. Chiamateci all'800 24 00 24, scriveteci al 349 238 6666, all'indirizzo salvadanaio@radio24.it, su Facebook salvadanaio-radio24, su Twitter @salvadanaio24. Adesso la borsa. I mercati sono proprio monotematici, Piazza Affari anzi è un po' monotematica da 2-3 giorni. Allora, io siccome ho già raccontato dettagliatamente quello che succede nel giornale radio, non mi fermo oltremodo sul caso Monte dei Paschi. Anche oggi il titolo scivola del 6%. Anticipo già ai nostri ascoltatori che noi di Salva Danaio ci occuperemo alle questioni di Monte dei Paschi domani, perché come era facile prevedere ci stanno scrivendo molti risparmiatori, molte persone che hanno il conto corrente in banca Monte dei Paschi, che hanno sottoscritto il mutuo con Monte dei Paschi, che hanno prodotti investimento sottoscritti con i professionisti di Banca Monte dei Paschi, sono legittimamente tutti intimoriti. Noi ci sentiamo di rassicurare tutti quanti, perché è veramente una questione reputazionale pesantissima quella che si è abbattuta sull'istituto senese, sulla comunità di Siena. Mi sentirei però di tranquillizzare tutta la platea dei risparmiatori. Poi, se a fronte di quello che hanno visto vogliono chiudere il conto corrente o fare altro, ognuno fa quello che vuole, ma Mi sentirei anche di trattare con il massimo rispetto tutte le persone che lavorano per questa banca, per i dipendenti che evidentemente sono totalmente all'oscuro e anche se stesse appunto vittime, anche essi stessi vittime di questa circostanza così spiacevole. Comunque, a parte il fronte politico che si è aperto nelle ultime ore, del quale stiamo discutendo in lungo e in largo nel corso dei nostri giornali radio, noi appunto per quello che riguarda il fronte finanziario vi dico che anche oggi c'è questo meno 6% di calo. Domani puntata a Salvadanaio, anche domani mattina 9 in punto con Simone Spezia, appunto si occuperà di questo argomento per le implicazioni di carattere politico, quindi abbiamo fatto questa staffetta. La borsa più 0,12%, a Milano le altre borse sono poco mosse, attenzione alle trimestrali high tech che arrivano dagli Stati Uniti, Apple non è piaciuta per niente al mercato pur avendo presentato risultati record, Tokyo stamattina ha chiuso con un rialzo dell'1,28%, direi che però la borsa la possiamo lasciare abbastanza rapidamente, andiamo al tema di oggi. A scuola andiamo tutti quanti con le iscrizioni online. Una fretta immotivata, un po' come quella che fa correre via gli studenti al suono della campanella dell'ultima ora, creando la calca all'uscita dal portone della scuola. Si può immaginare come una corsa di questo tipo, quella che ha portato il sito del Ministero dell'Istruzione ad andare in tilt da quando, con la mezzanotte di domenica scorsa, si è dato il via al processo che per la prima volta nella storia della scuola consente alle famiglie di effettuare le iscrizioni alla scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado, esclusivamente in rete. È possibile presentare domanda per un solo istituto, ma si possono indicare opzioni alternative, che verranno prese in considerazione nel caso in cui nella scuola prescelta si dovesse verificare un'eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili. Ciò nonostante, precisano dal Ministero, la data di iscrizione non costituisce un requisito nella selezione. Non si tratta di un click day e non vale la regola del chi prima arriva meglio alloggia. Meglio quindi aspettare qualche giorno e scegliere con attenzione, poiché l'ordine in cui vengono inserite le tre opzioni sarà seguito rigidamente come criterio di assegnazione. Meglio non compilare a caso per richiedere un cambiamento. Sarà necessario ottenere il nulla osta dal dirigente della scuola individuata. Le famiglie che non hanno accesso a internet potranno rivolgersi direttamente agli istituti, che sono tenuti, in base alle indicazioni ministeriali, ad offrire un supporto per l'iscrizione. Insomma, la fretta immotivata, come l'ha chiamata il ministro Profumo, può essere una cattiva consigliera, anche se potrebbe essere meglio non ridursi all'ultimo giorno per completare l'iscrizione online. Con l'avvicinarsi della campanella di fine febbraio, infatti, potrebbe ripresentarsi un po' di sovraffollamento, anche se dall'istruzione rassicurano, tutto funzionerà regolarmente. Dopo i primi momenti di tilt, è stato anche assoldato un gruppo di intervento tecnico di supporto ai server per fronteggiare eventuali criticità e per potenziare la memoria web. Marco Lombardo che elabora e scrive le nostre schede dice: è stato assoldato un gruppo tecnico per gestire tutte le problematicità, appunto tutte le questioni problematicità si dice, mi sono inventato un termine nuovo stamattina, quindi bocciata la Rosciani. Buongiorno ancora a tutti. Allora, volevo subito iniziare con una testimonianza di una mamma, Barbara Bisazza del Sole 24 Ore. Barbara, buongiorno. Buongiorno, raccontaci un po' come è andata. Intanto hai iscritto a quale scuola? Un bambino, una bambina? Perché non mi ricordo se hai un maschio o una femmina. Un figlio maschio di appunto 10 anni, iscritto alla prima classe della scuola secondaria di primo grado, prima media. Allora, raccontaci com'è andata l'operazione, se hai stata una di quelle che domenica notte a mezzanotte e un minuto era già lì di fronte al PC per fare immediatamente l'iscrizione, o sei andata a dormire, cioè hai pensato lunedì direttamente? Sono andata a dormire tranquillamente, devo dire, anche perché sono troppo stanca la sera. Comunque, a parte questo, anche per curiosità giornalistica, lunedì verso sera ho provato ad accedere, ma dopo mezz'ora di tentativi falliti ho rinunciato. Anche falliti proprio per poter avere la prima registrazione che è necessaria per poi accedere al sistema. Infatti, perché c'è primo step da fare per avere una serie di codici per poi completare l'iscrizione con la scuola. Poi magari ci andiamo nel dettaglio. E poi quindi dove si è arenato il tuo percorso? Si è arenato subito, addirittura nel richiedere la registrazione al sistema, quindi l'invio dei codici. Non si riusciva nemmeno a fare quello, almeno lunedì verso le 7 di sera, così. E poi martedì mattina ci ho riprovato alle 7 di mattina, è andata molto meglio. Ho ottenuto subito i codici, però poi tentando di procedere nell'iscrizione il sistema dopo un po' mi buttava fuori, e la cosa spiacevole era che magari avevi compilato un'intera pagina e il sistema saltava e non ti permetteva nemmeno di salvare i dati compilati fino ad allora. Un'ora di lavoro buttata via in sostanza, perché dovevi anche ricominciare di più. Anche di più. Sì. Ho riprovato la mattina dopo, ieri mattina, e sono riuscita abbastanza tranquillamente, sempre in prima mattinata. Sono riuscita abbastanza tranquillamente, non ho inviato subito la domanda perché ho preferito salvarla, stamparla, riguardarla con calma, per visto che una volta inviata poi è più complicato magari modificarla, no? E questa mattina devo dire, anche sapendo di sentirci, ho provato in orario 10:30, quindi non molto tempo fa, e devo dire che è andata tutto liscio, ho fatto il mio invio tranquillamente, mi è immediatamente arrivata la ricevuta. Benissimo, infatti anche dal Ministero hanno poi assicurato che progressivamente le cose si sono andate normalizzando, quindi era anche abbastanza naturale aspettarsi questo intasamento, diciamo, delle prime ore. Cara Barbara, ti ringrazio, però magari sì, un altro commento... Io anche disponevo anche di una connessione veloce. Esattamente, magari... volevo arrivare a quello. Chiaramente noi magari adesso stiamo raccontando un po' l'esperienza tua, una giornalista, una mamma moderna che chiaramente ha una grande praticità e dimestichezza anche con questi mezzi. Sicuramente non è così per tutti, c'è addirittura ancora, insomma, chi non ha il computer in casa legittimamente, che non ha una connessione a DSL per cui deve attrezzarsi diversamente, magari fare tutta l'operazione in ufficio, negli orari di lavoro, il che rende ancora la questione più complicata. Ma tu, insomma, di questa digitalizzazione del mondo della scuola, che ne pensi? Ti trovi meglio? Secondo te anche la relazione con la scuola verrà gestita meglio, più direttamente, quindi le informazioni arriveranno prima? Cosa ne pensi? O preferisci comunque il contatto diretto con questo mondo, che comunque non verrà sicuramente pregiudicato? Guarda, io sono sicuramente una mamma abituata per mille motivi a essere molto digitalizzata e a cercare di risparmiare tempo più possibile. Sono un utente dell'home banking, dell'internet banking, tutte queste cose qua. Tutto quello che posso fare con internet lo faccio con internet. Quindi sicuramente forse sono sopra la media da questo punto di vista. Però devo dire che trovo questa trasformazione epocale, importantissima. Tutto sommato il sistema secondo me non sta neanche funzionando male, poteva andare molto peggio visti i numeri in gioco. Forse un pochino il periodo di transizione magari sarebbe stato opportuno per quelle famiglie che appunto non hanno a disposizione internet o non hanno una connessione veloce e sono meno abituate ad interfacciarsi con questo tipo di sistema. Credo però che il futuro è qui, insomma. E infatti non si può tornare indietro. Barbara, grazie molte. Sì. Meglio, Grazie tante, buona giornata, buon lavoro. Poi sentiremo anche Francesca Barbieri, un'altra collega del Sole, però vorrei sentire un po' più complessivamente cosa ne pensano i genitori tutti. Davide Guarneri, NA4 se non sbaglio. Quindi sicuramente statisticamente un'iscrizione con queste modalità l'ha dovuta fare. No, quest'anno invece è l'unico anno in cui sono immune, però abbiamo comunque molti contatti con genitori che sono un po' in questa situazione. Ecco, allora che cosa ci dice? Situazione che si va normalizzando, sì. Ecco, direi che le indicazioni che voi avete già fornito sono ottime. La cosa più importante è l'orientamento adeguato dei nostri figli e questo viene molto prima dell'atto tecnico dell'iscrizione. Quindi è anche opportuno ragionare, pensare un poco, abbiamo tempo appunto fino alla fine del mese di febbraio, fino al 28 febbraio. Una prima riflessione è quella che questa operazione di quest'anno è dovuta all'attuazione progressiva della cosiddetta agenda digitale. Lo scopo dell'agenda digitale non è solo il risparmio economico, chiaramente, ma è l'andare incontro al cittadino progressivamente nello snellire le procedure e nello snellire la burocrazia. Quindi la domanda è se quest'anno con queste operazioni stiamo davvero aiutando il cittadino. Pare che qualche disagio effettivamente ci sia, forse certamente era prevedibile. Il sito del Ministero già questa mattina informa che da ieri nel pomeriggio si è appunto raddoppiato il numero delle iscrizioni all'ora e quindi tutto sembra essere un po' più snello passati i primi giorni. E anche perché appunto magari inizialmente potenzialmente potevano esserci questo numero di richieste orarie, il problema è che non passavano perché appunto il server del Ministero è andato in tilt. Quali altre situazioni problematiche le hanno evidenziato appunto i genitori? Mi chiedo se per esempio qualcuno abbia un po' anche considerato che questa è una procedura che non mette a proprio agio le famiglie proprio perché appunto la digitalizzazione non arriva in egual misura in tutto il territorio. territorio? Direi almeno due situazioni problematiche. La prima è che ci sono ancora aree del paese, non solo il sud, ma anche pensiamo alle valli in nord, in cui le linee non sono così facilmente accessibili e l'internet non è così veloce. E quindi questo richiede da parte dei ministeri una maggiore collaborazione, un incentivo proprio alla tecnologia perché prosegua. Il secondo tema è che ci sono ancora adulti che non hanno familiarità con la compilazione appunto di domande online e così via. E questo richiede nel tempo, quindi abbiamo davanti tempo nei prossimi anni, percorsi formativi molto più intensi, quindi grazie anche a questi inconvenienti direi che si può davvero ragionare sulla formazione dei genitori attraverso le associazioni in collaborazione con le scuole, anche su temi come appunto l'informatica che non basta mai. I nostri figli sono molto più avanti di noi. Mamma mia, guarda, io non ho figli, ho dei nipoti che però sono già super addestrati ad utilizzare la tablet, e veramente io mi vergogno anche quando li vedo con quelle manine muovere appunto lo schermo. Eccoci ritrovati in diretta. Allora, da lunedì scorso si sono aperte ufficialmente le iscrizioni all'anno scolastico 2013-2014 attraverso la modalità online. Stamattina ne stiamo parlando, un percorso che abbiamo iniziato direttamente già da lunedì, e stiamo cercando di capire se intanto si è un po' smaltito tutto il traffico che si era concentrato lunedì scorso, quando le famiglie sono partite immediatamente per togliersi subito il pensiero. Adesso il traffico appunto di informazioni fra scuole e Ministero dell'Istruzione si sta chiaramente e famiglie si sta smaltendo, per cui le iscrizioni si stanno facendo con più regolarità rispetto a, come diceva, l'intasamento di lunedì. Detto questo, ci sono tante questioni che stanno ponendo gli ascoltatori ai nostri canali. Appunto, per esempio, c'è un ascoltatore che scrive: ho l'impressione, al di là del merito del tema, ce lo scrive su Facebook, del tema iscrizione online, che quello che muove l'agenda digitale è il taglio dei costi, la necessità di tagliare, che se ne dica in diretta, perché la cultura dell'erogazione dei servizi a distanza avanza a stento e i vertici che decidono il destino del nostro paese in questo senso brillano per pochezza. A parte, diciamo, la cornice generale, Daniele Grassucci, effettivamente un'accelerazione al processo di digitalizzazione, diciamo, del panorama scolastico è arrivato proprio con tutte le iniziative legate alla spending review. Per esempio, la pagella online, che partirà da giugno prossimo, è stata introdotta proprio con le ultime misure, giusto? Assolutamente, c'è tutto un pacchetto di misure proprio per cercare di risparmiare appunto all'interno della scuola. Non dobbiamo pensare che si tratti solamente, ecco, di un risparmio di carta, perché c'è proprio tutto un risparmio in termini procedurali. Ad esempio, il Ministero in tempo reale è in grado di conoscere come stanno andando i flussi di iscrizioni, quindi è in grado di organizzare per tempo ad esempio gli organici, quindi dimensionare accuratamente gli organici per l'anno successivo. Insomma, ci sono tutta una serie di benefici informativi a cascata, certo, che vanno al di là del semplice risparmio di carta. C'è poi da dire che almeno questo è un parere personale, chiaramente da conoscitore insomma delle piattaforme web, in realtà il primo anno in cui si vanno a rodare questi sistemi c'è un risparmio chiaramente in carta e altri generi legati appunto alla materializzazione, però nel contempo lo sviluppo delle piattaforme informatiche ha un costo, quindi c'è da dire che se da una parte si è risparmiato, dall'altra sicuramente si è dovuto per gioco forza investire, anche perché stiamo parlando di un'infrastruttura che deve reggere, secondo i dati del Ministero, 150.000 connessioni in un'ora. Stiamo parlando di numeri da un sito di informazione come può essere quello di Radio 24, del Sole 24 Ore, questo per far capire i nostri ascoltatori le proporzioni. Stiamo parlando, ecco, sono già state fatte 130.000 iscrizioni, cioè quasi il 10% di quelle totali, circa 1.700.000, sono state fatte in 3 giorni, quando il tempo disponibile era oltre 1 mese e 10 giorni. Questo insomma per far capire ai nostri ascoltatori che è una situazione complessa, sicuramente si è risparmiato, ma si è investito proprio in virtù dell'innovazione. E come diceva prima anche Guarnieri, il fatto di che i genitori si debbano cimentare con queste nuove tecnologie poi in realtà non è altro che un allenamento, perché nei prossimi anni tutta la pubblica amministrazione viaggerà su questi canali. Daniele, come possiamo aiutare questo genitore che ha inoltrato la domanda inserendo il nome di sua figlia sbagliato, se oltre ad essersi preso sicuramente il rimbrottone della moglie a casa e anche della figlia, magari può correggere il tiro, può direttamente chiamare la scuola? Io penso che, diciamo, essendo una procedura centralizzata, si può chiedere direttamente al Ministero della Pubblica Istruzione, nella pagina dell'iscrizione ci sono sicuramente degli indirizzi, oppure può rivolgersi all'URP, cioè l'Ufficio delle Relazioni con il Pubblico del Ministero della Pubblica Istruzione, che è un organo dedicato appunto a rispondere a questo tipo di domande, quindi andando sul sito del Ministero trova i riferimenti per poter appunto dialogare con queste entità. Sicuramente ecco, la domanda viene poi inoltrata alla scuola, però il sistema è centralizzato, quindi io consiglio di rivolgersi agli organi competenti del Ministero. E voglio rinnovare, proprio per quello che si diceva prima, un appello alla calma, nel senso il tempo c'è, siccome è una domanda importante, cioè sia la scelta e il merito della scelta, cioè capire effettivamente qual è la scuola più adatta al figlio, ma c'è anche proprio un tema di compilare correttamente la domanda, quindi mi sento di in qualche modo essere in pieno accordo con il Ministro, il tempo c'è, si facciano le cose con calma. E per evitare problemi suggerisco di evitare due orari, cioè quelli dalle 9 alle 11 e dalle 14 alle 17, perché sono gli orari in cui c'è il maggior traffico e quindi più probabilità. Esatto, che le cose perché tra l'altro esatto, la procedura è aperta 24 ore su 24, per cui effettivamente se uno vuole farlo tra le 11 e mezzanotte sappiate che magari trovate sicuramente meno traffico e potete fare, se siete sufficientemente lucidi a quell'ora, con più tranquillità. C'è un ascoltatore, Costantino, che dice: mio figlio frequenta l'Istituto Nautico a Genova, dove esiste già il registro elettronico e tutti i servizi sono online, voti, pagelle, eccetera. Sì, effettivamente già molte scuole hanno sperimentato con successo queste modalità di comunicazione con le famiglie, ma adesso diciamo si sta cercando di fare in modo che tutto il panorama scolastico italiano sia pronto con questa modalità. Un paio di ascoltatori, poi vado a Francesca Barbieri. Sentiamo Giuseppe della provincia di Lucca, che è un po' intimorito dalla relazione tecnologia-scuola. Giuseppe, buongiorno. Sì, buongiorno. Io devo iscrivere il primo anno della scuola dell'obbligo e chiaramente sono scettico, il più mi viene confermato che il signore precedente ha sbagliato il nome e c'è da fare tutto un casino, lo vedo talmente complicato e chiaramente ancora non l'ho fatta l'iscrizione perché tanto c'è tempo fino al 28, però la mia paura è proprio anche questa, sbagliare però non poi non riuscire a correggere, lo vedo così complicato il tutto, se uno sbaglia mi sembra tutto complicato, forse perché sicuramente non sono bravo col computer. No, però Giuseppe, mi sento di poterla appoggiare in questa considerazione, c'è forse un po' troppa rigidità nei confronti di chi commette magari così anche un errore in totale buona fede e addirittura non si può tornare indietro se non a patto appunto di dover mettere in piedi chissà quale meccanismo. Quindi Giuseppe, sentiamo un po' i genitori che ne pensano. Guarneri: tra l'altro la procedura di ritorno indietro è molto complicata, soprattutto se si sbaglia a scuola, perché lì bisogna inoltrare poi una domanda all'ufficio scolastico, lì sì che è complicata la questione, forse l'errore del nome è più semplice da correggere, ma se addirittura abbiamo scoperto di non voler più frequentare quella scuola, ma già abbiamo inoltrato la domanda online, lì sì che sono dolori. Ma leggendo almeno le indicazioni che sono presenti nel sito, quelle che tecnicamente si dicono FAQ, e c'è scritto che è possibile modificare eventuali errori che sono stati prodotti. Consiglio anch'io comunque di inoltrare una mail o una telefonata all'URP per casi particolari. È recentemente stato spiegato, a noi era arrivato un quesito su questo, per esempio, che se un genitore deve iscrivere più figli fa una sola iscrizione e non deve più volte accreditarsi, questo è stato perfezionato nella procedura in seguito, quindi sono molto opportune anche queste indicazioni che stanno arrivando adesso dagli ascoltatori. Certamente un po' di timore nei confronti dello strumento è prevedibile, tutti noi ne abbiamo, qualcuno, ho terminato da poco di compilare un questionario per un ente online ed è stato un po' complicato, però dobbiamo necessariamente un po' adeguarci. Alla pubblica amministrazione dobbiamo chiedere di essere sempre più chiara, più esplicita nelle proprie domande e di provare a mettersi dal punto di vista anche di chi non conosce gli strumenti informatici. Francesca Barbieri, oltre collega del Sole 24 Ore, si occupa di questi temi per il quotidiano, è naturalmente anche una mamma che quindi ha fatto la prova sul campo per capire se l'iscrizione online funziona, se è agevole, se è, come dire, una questione pratica da risolvere. Tra l'altro, proprio per il Sole 24 Ore di lunedì ha sentito su questa nuova digitalizzazione del mondo scolastico italiano una figura molto autorevole, il vice direttore per l'educazione dell'OCSE. Come ci guardano dall'Europa, Francesca, su questi nostri percorsi? Sì, buongiorno a tutti. Allora, dall'Europa ci guardano, come dire, sulla strada del miglioramento. Mm. Diciamo che alcuni passi avanti sono stati fatti. Si applica, ma potrebbe fare di più, insomma, per dirla tipicamente in gergo scolastico. Sì. Senti, allora, com'è andata invece con i tuoi figli? Guarda, io devo iscrivere mia figlia alla scuola media. Per adesso sta andando male. Ah, quindi tu non ci sei... Barbara è stata più brava e tra l'altro siete anche compagni di stanza, per cui non ti ha dato tutti i segreti... Lei ha iniziato a provare lunedì, io invece ho lasciato passare il primo giorno, ho iniziato da martedì, ma solo ieri sera sono riuscita a registrarmi, pensavo di essere arrivata a buon punto. Esatto, perché il primo percorso, cioè il primo step di tutto il percorso è intanto la registrazione da parte dei genitori sul sito del MIUR per ricevere sulla casella di posta elettronica propria il codice personale di accesso al servizio iscrizioni online. E quindi tu lì ti sei fermata perché non sei voluta andare oltre o perché c'era problema con la scuola? Allora, il problema è stato che ho ricevuto ieri sera il codice, ho provato a inserirlo. Ah, perché non è immediato, password. Cioè non è che appena tu fai la richiesta la password ti arriva con un po' di calma, ti arriva qualche tempo dopo, qualche ora dopo? No, ti arriva subito. Ah. Il problema è che quando tu inserisci il codice e poi la password non riesci a entrare, almeno a me è successo che non sono riuscita ad entrare subito, quindi ti rimando indietro. Poi dopo altri tentativi sono riuscita a inserire dati di mia figlia, il codice della scuola, però a questo punto mi è venuto fuori un messaggio che mi diceva errore e non riuscivo più ad andare avanti. Ho capito, ieri sera ho rinunciato, riproverò oggi. Benissimo, poi tienici aggiornati insomma per capire se ce la fai o meno, ma naturalmente sono sicura che avrai successo. In bocca al lupo per tutto, Francesca, grazie mille anche a te per averci raccontato la tua testimonianza. Allora, scuola, iscrizione online, sentiamo come stanno andando le cose a Fernando da Lecce. Fernando, buongiorno. Buongiorno a tutti voi, ben ritrovati. Praticamente il problema mio ve lo riassumo subito perché purtroppo ho la batteria scarica, quindi eventualmente dovesse cadere la linea me ne scuso anticipatamente. Praticamente ho fatto la connessione, sono riuscito dopo vari tentativi a entrare nel sistema, però praticamente alla voce moglie dove devo mettere i dati, praticamente ho messo cittadinanza, siccome mia moglie è nata in Russia però è cittadina italiana, quando ho messo cittadina italiana e le altre voci chiedevano nata eccetera, non mi dava la possibilità di poter dire appunto che è nata in Russia. E quindi sono rimasto bloccato. Invece, cioè, secondo me, questa voce cittadinanza doveva essere messa per ultimo, cioè mette praticamente nata, per esempio, che so, a Mosca, in Russia, cittadinanza italiana, perché successivamente poi ha acquisito la cittadinanza italiana. Certo. Quindi mi ha bloccato, ecco, il sistema si è bloccato, mi ha fatto più andare avanti. Questo è tutto. Grazie mille. Sì, tra l'altro, ecco, è arrivato già il collegamento anche con un preside che abbiamo interpellato per farci raccontare in questa scuola le cose come stanno andando. Ci metto insieme anche Giorgio da Rovigo e poi appunto interpelliamo i nostri ospiti di stamattina per capire, per queste situazioni un po' così miste, come si può completare con successo questa iscrizione, perché è anche abbastanza probabile pensare che in Italia ci siano tante mamme e tanti papà che abbiano delle situazioni di cittadinanza, diciamo, un po' più complessa, ma che è giusto che inseriscano appunto i loro dati. Giorgio da Rovigo, buongiorno. Pronto, buongiorno, scusate. Grazie tante che mi avete chiamato. Io e mia moglie siamo romeni. Sì. Ho voluto fare l'iscrizione in questi giorni. Ieri sono riuscito a collegarmi. Quando inizia a darti il paese dove sei nato, non esce nulla. Solo... è un dato obbligatorio, Giorgio, da inserire, non è facoltativo, cioè bisogna metterlo per forza. Esatto. Mi pare strano che il Ministero, qua bisogna interpellarlo il Ministero per capire perché non abbiano ipotizzato nelle schermate di richiesta di informazioni queste situazioni. Giorgio, Grassucci, ti risulta? Daniele? Ma chiaramente io non ho fatto la procedura. No, però questa è una bella cosa interessante da segnalare. Ecco, quello che posso dire è questo, che ad esempio... ha diramato una nota al Ministero, nel caso in cui ci siano alunni di figli immigrati senza permesso di soggiorno e quindi siano sprovvisti del codice fiscale, che è chiaramente invece un dato richiesto, in questo caso appunto il sistema non ha la flessibilità di gestire questa situazione e si informano i genitori di recarsi verso le segreterie delle scuole per provvedere ad acquisire le domande di iscrizione. Quindi possono bypassare il problema andando fisicamente nella scuola, Fernando e Giorgio? Secondo te? Io penso che, perché Ovviamente il ministero sarebbe in questo caso il migliore interlocutore, però leggendo le note stampa che hanno diramato, ad esempio in questo caso particolare in cui non si è in condizione di inserire un dato obbligatorio, che però comunque non è disponibile perché queste persone non hanno appunto un codice fiscale, allora in quel caso bisogna andare nelle segreterie delle scuole. Quindi ritengo che in queste situazioni particolari sia opportuno avvalersi dell'assistenza delle scuole, che comunque è prevista. Davide Guarneri, che ne pensa? Ci può supportare con un'altra sua interpretazione della gestione del problema? La nota citata dice appunto di alunni figli di immigrati senza permesso di soggiorno. Mi pare che invece i due casi non siano sottolineati fossero invece genitori regolarmente residenti in Italia, certo. Ecco, quindi così colpisce un po' che il Ministero non sia riuscito a prevedere questa opzionalità. La segnaliamo, tra l'altro lo dico a Maria Piera Ceci, che lunedì reinterpella del nuovo il Ministero, per cui gli faremo segnalare anche queste situazioni. Ecco, certamente però ci aiuta questa situazione a ricordare che le scuole devono essere, almeno secondo le note diffuse dal MIUR, devono essere a disposizione dei genitori, e quindi noi come associazione evidenziamo che può essere anche un'occasione in più da parte del genitore per un dialogo con la scuola. Si dice proprio esplicitamente nella nota 253 uscita il 18 gennaio i due casi: la famiglia dispone di strumentazioni informatiche ma chiede comunque alla scuola di poter essere seguita nella compilazione della domanda, e c'è questa possibilità, o addirittura la famiglia non dispone di un computer e quindi la scuola ha comunque il dovere di sostenere e mettere a disposizione gli strumenti alla famiglia perché possa presso la scuola compilare la domanda. Ricordo ancora a tutti quelli che ci seguono che avete ancora 5 minuti di tempo se volete per intervenire in diretta all'800240024, oppure scriveteci al 349-238-6666. E allora, Giuseppe Fioresta è preside dell'Istituto Alberghiero di Soverato, in provincia di Catanzaro. Preside, buongiorno, benvenuto. Sì, buongiorno a voi. Un bel fermento in questo periodo per quello che riguarda la vostra scuola, le prese non solo con l'ordinaria amministrazione di un anno scolastico che va avanti, ma adesso quest'anno vi siete dovuti cimentare anche con queste nuove modalità di ricezione, diciamo, delle iscrizioni. Come sta andando, preside? Quante ne avete ricevute? Ancora noi nella nostra comprensione è un pochettino a rilento con le iscrizioni, ecco, però abbiamo già predisposti i nostri uffici affinché possano accogliere i genitori che non hanno appunto la connessione a internet e di essere di supporto a loro per tutta la procedura dell'iscrizione online. Ecco, quindi che cosa fate? Li ricevete, la compilate voi oppure la ricevete in maniera cartacea? No, generalmente no, li compiliamo direttamente noi, sì, perché chi si rivolge alla nostra scuola o per gli ovvi motivi del collegamento, perché non dispone del computer, la compiliamo noi direttamente con i nostri assistenti amministrativi. Sì, questo sì. Preside, le piace questa modalità nuova per le iscrizioni oppure lei preferiva la modalità faccia a faccia con la famiglia, i genitori? Insomma, anche però va ricordato che ci sono i percorsi di orientamento precedenti all'iscrizione, per cui sicuramente già la famiglia ha un contatto con voi, lo prende, poi lo manterrà nel corso dell'anno, ma l'iscrizione in diretta, chiamiamolo così, o diretta se ci piace associare questo termine all'iscrizione online, insomma, come la vede? Ma guardi, dal punto di vista di facilitare la procedura è senz'altro apprezzabile, ecco, non lo so che riuscita avrà alla fine, perché di fatto nelle nostre zone sono poche le domande autonome che giungono alla scuola, perché la maggior parte si rivolge appunto o alla nostra scuola o alla scuola di provenienza, alla scuola secondaria di primo grado. Ecco, nel momento in cui il sistema dovesse funzionare bene, certo sarebbe un vantaggio per l'istituzione stessa. Certo, per tutta l'orientamento, la noi lo facciamo, diamo molto spazio all'orientamento della nostra scuola, perché facciamo venire, perché li prendiamo noi i ragazzi delle varie scuole a nostre spese, facciamo visitare il nostro istituto e quindi diamo un'informazione diretta agli alunni. E poi nelle due giornate che abbiamo dedicato all'Open Day lasciamo la scuola aperta affinché possa essere visitata da tutti. Ecco. Preside Fioresta, grazie molte per la sua testimonianza, le auguro buon lavoro. Grazie. Buona giornata, a presto. A proposito della questione estero che abbiamo sollevato prima, c'è un suggerimento di Gianni da Modena che abbiamo raccolto al volo. Gianni, buongiorno. Sì, buongiorno. Niente, vi stavo ascoltando e volevo semplicemente dire che anch'io sto facendo per un amico straniero la richiesta online e mi è stato suggerito da parte degli uffici competenti che nella tendina delle province, in mezzo alla lettera E, c'è scritto estero. Ah, e quindi su quella, però poi il problema nasce dopo quando siamo nei dati della famiglia, che è sempre in un altro, diciamo, settore, di fatto questa parola rimane ed è immodificabile. Quindi questa è una richiesta che chiedo io, se per caso qualcuno sa come risolvere invece questo secondo problema. Guardi qua, questa registrazione la mandiamo direttamente al Ministero e solleviamo appunto ufficialmente questo problema. Allora, la trasmissione sta chiudendo, abbiamo ancora un minuto e mezzo di tempo che dedichiamo a Davide Guarnere, presidente dell'Associazione Italiana Genitori, e a Daniele Grassucci di Scuola.net per le ultime raccomandazioni finali. Guarneri, messaggio ai genitori. Il messaggio ai genitori appunto è, prima di tutto pensiamo all'orientamento senza fretta e pensando alle attitudini, ai bisogni dei nostri figli, pensando che soprattutto per le secondarie la scuola che scegliamo non dà automaticamente il lavoro e così via, cose che abbiamo già detto. Il secondo messaggio è più di tipo politico. L'agenda digitale speriamo non si realizzi solo a spese delle famiglie e delle scuole che devono mettere il proprio personale, ma serve sicuramente una concertazione di lavoro fra molti ministeri, uno sforzo corale dell'amministrazione pubblica e del paese. Un messaggio telegrafico anche da parte di Daniele Grassucci, scuola.net, scuola con la K. Io darei un messaggio molto, molto pratico. Ecco, visto che c'è stato questo timore di che i posti finissero, ecco, di contattare le scuole, quindi stabilire una relazione diretta con le scuole interessate e capire quali sono i criteri di selezione per capire effettivamente quali saranno le probabilità o meno di poter riuscire ad accedere in quella scuola, quanti sono magari stati gli iscritti rifiutati l'anno precedente. Questo, ecco, darà alla famiglia la possibilità di avere una ragionevole certezza di poter entrare nella scuola oppure di optarsi direttamente su un'altra come prima scelta. Grazie molto ad entrambi. Noi abbiamo terminato, ci sentiamo stasera alle 17 con Focus Economia. Domani Salvadanaio, vi anticipo già, ve lo ricordo, si dedicherà alla questione Monte dei Paschi. Buona giornata a tutti.